wa mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi. Buon pomeriggio da Giorgio Telesforo, siete sempre in contatto con il Soundcheck. Oggi chiudiamo la settimana con alcune novità, alcune delle quali le abbiamo già presentate nel corso delle ultime settimane, ma prima di dare il via alla musica vorrei ricordarvi che potete richiedere tutte le vostre informazioni riguardo ai brani in Airplay scrivendo al nostro indirizzo di posta elettronica, che è sempre lo stesso, soundcheck@radio24.it, e nella nostra pagina all'interno del sito di Radio 24 troverete anche il podcast e quindi la possibilità di poter riascoltare le ultime puntate. Allora, il via alla musica, apriamo con il chitarrista Robin Ford, molto amato dagli appassionati di blues, ma un musicista completo che addirittura negli anni 80 ha militato nelle band di Miles Davis, è stato uno dei fondatori di quella ottima band fusion chiamata Yellow Jackets insieme al pianista Russell Ferrante, e ultimamente Robin Ford si è recato a Nashville ispirato da quella tipica atmosfera del sud degli Stati Uniti. In una sola giornata di registrazione ha realizzato 9 brani con la partecipazione e la complicità di ottimi amici musicisti come il chitarrista Hodley Freed, il tastierista direttamente da Minneapolis, questo eccellente musicista Ricky Peterson, il bassista Brian Allen, il batterista Wes Liddle, e a completare l'organico il suono del trombone di Barry Green. L'album si intitola A Day in Nashville. Il brano che ho scelto per voi, lo abbiamo già ascoltato qui al Soundcheck, è molto divertente e si intitola Ain't Drinking Beer No More, per Robin Ford qui al Soundcheck. Suono del bluesman Robin Ford con una strepitosa band da un album recentissimo intitolato A Day in Nashville. Il brano era Ain't Drinking Beer No More qui al Soundcheck di Radio 24. Facciamo una breve pausa, torniamo invece con Zara McFarlane. Soundcheck, il suono della musica. La passione di Zara McFarlane, questa giovane interprete ma ottima musicista polistrumentista inglese, prodotta per questo album dal titolo If You Knew Her dal veterano della produzione come Giles Peterson, che è famosissimo in Inghilterra, ma anche tutti i DJ nel mondo lo stimano e lo seguono, intanto per meravigliose stagioni radiofoniche trascorse alla BBC, rete per la quale continua continua a produrre programmi di musica, anche se la sua attività è molto vasta, direttore artistico di festival importanti, eccellente producer, ma anche uno stimolo continuo per i musicisti in Inghilterra. È stato uno degli artefici di quel bellissimo periodo identificato come acid jazz, e quindi per le produzioni della Talking Loud Records. Zara McFarlane, polistrumentista, torna al soundcheck con una sua composizione intitolata Move e lancia il testimone a un'altra recentissima pubblicazione, quella che vede protagonista il bravissimo Beck Hansen, in arte Beck, che torna dopo 6 anni di assenza dal mercato discografico con una bellissima produzione ipnotica, onirica, così come da sempre è la musica di Beck. L'album si intitola Morning Face, per questo ragazzo che viene da una famiglia di artisti, una famiglia molto bizzarra, e pensate che per un certo periodo della sua vita ha vissuto in un capannone, dove però si è formato musicalmente da autodidatta, per poi andare in giro lì in California a suonare le sue canzoni in bar, baracci e pub, fino ad approdare alle prime autoproduzioni, e oggi è un musicista molto seguito che produce album anche di altri grandi artisti. Beck lo ascoltiamo qui al soundcheck di Radio 24 da Morning Face, proprio con il brano di apertura di questa ottima realizzazione, ottimo album. Il brano si intitola Morning, Beck al soundcheck di Radio 24. Woke up this morning, Soundcheck, il suono della musica. E torna al soundcheck di Radio 24 un musicista, un compositore senza età, così come senza età da sempre la musica che scrive Pat Metheny. Torna con Keane, Pat Metheny Unity Group, una eccellente formazione che adesso, proprio in questi giorni, è in tournée, come sempre una tournée infinita per Pat Metheny, insieme a Chris Potter ai sassofoni e ai flauti, il bravissimo Antonio Sanchez alla batteria, Ben Williams contra basso e basso elettrico, e a completare l'organico il talento di un italiano, il polistrumentista Giulio Carmassi, che per Pat Metheny suona di tutto, dal pianoforte alla tromba, trombone, corno francese, violoncello, vibrafono, clarinetto, flauto, sax contralto, canta e fischia. Sa fare di tutto Giulio Carmassi. È anche molto particolare come si sono conosciuti, perché la moglie del bassista Will Lee segnala a Pat Metheny il talento di Giulio Carmassi. E così Pat Metheny contatta Giulio e gli chiede, come audizione, come provino, di realizzare una versione di una sua vecchia composizione, anche molto difficile, intitolata First Circle. E quindi, dopo aver ascoltato il lavoro realizzato da Giulio Carmassi, che potrete verificare andando su YouTube a cercare proprio Giulio Carmassi First Circle, Pat Metheny non poteva fare altro che coinvolgerlo nella realizzazione di Keane, e quindi questa incredibile tournée che approderà in Italia a giugno. Quindi Pat Metheny Unity Group dal vivo in Italia dal 14 giugno a Villa Manin Udine, 15 giugno Arena Dertona a Tortona, 16 giugno Anfiteatro Romano di Firenze, Auditorium Parco della Musica a Roma 18 giugno, 19 Teatro Carlo Gesualdo ad Avellino, il 20 giugno al Teatro Team di Bari, il 21 giugno a Cava degli Umbri a San Marino, e poi l'ultima data italiana il 22 giugno al Teatro del Vittoriale a Gardone Riviera. L'album si intitola Keane, il brano che vi presento è We Go On, splendido qui al soundcheck di Radio 24. E allora vorrei chiudere questa puntata del nostro Soundcheck celebrando il talento di Giulio Carmassi. E ci siamo sentiti, abbiamo avuto uno scambio di email e Giulio è stato molto carino, mi ha inviato il suo materiale, quindi c'è il nuovissimo album di Giulio Carmassi, dove naturalmente, come sempre fa, suona tutto lui. Il brano si intitola Enter to Exit, il brano che ho scelto per voi si intitola Bulldog, e quindi con Giulio Carmassi chiudiamo il Soundcheck e chiudiamo anche questa settimana. A tutti voi buon weekend e buona musica da GG Telesforo. Suono della musica.